cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti, buon lunedì 22 agosto, buona giornata da Deborah Rosciani. Da oggi per due settimane sarò io a condurre Ma cos'è quest'estate, un'estate molto intensa, tanti gli argomenti che hanno animato anche questo nostro programma fino ad oggi, egregiamente condotto dall'Elisabetta Fiorito da Roma, che salutiamo con affetto. E invece da oggi si parte con me in redazione, intanto ringrazio subito Silvi Boccaletti e Massimo Lollis e poi in regia Peter Bescapè, per chi ne avesse sentito la nostalgia fino a questo momento, è ritornato naturalmente anche lui. Allora, i temi di cui parliamo oggi: fari puntati sul trilaterale di Ventotene, Matteo Renzi accoglie nel tardo pomeriggio Angela Merkel e François Hollande, con tanti temi sul tappeto, sicurezza che sta tanto a cuore alla Francia, poi le questioni economiche che invece sono al momento le priorità del governo italiano per la Germania, che peraltro fra le altre cose si presenta anche con il biglietto da visita del divieto del burka. Il tutto nella nuova condizione in cui l'Europa si trova, considerata la Brexit. Quindi oggi faremo un'analisi dell'atteso vertice di Ventotene, visto proprio da Roma, Berlino, Parigi, ma anche da Londra. Per la seconda parte della trasmissione, due notizie che ci hanno incuriosito. Molti italiani, lo sapete, probabilmente è toccato anche a voi, si stanno sempre di più appassionando alla sharing economy, l'economia condivisa. E settimana scorsa abbiamo appreso che una delle sigle più note del car sharing, Car2Go a Milano, nei suoi nuovi contratti vieta a chi noleggia le sue auto di andare nel sud Italia. È già stato detto di tutto su questa notizia, insomma una politica in qualche maniera addirittura razzista, ma la società è impossibile da contattare, da farla commentare su questo argomento, ma abbiamo tanti ospiti con cui commentare questa notizia. Infine parleremo di noi, delle giornaliste, delle donne giornaliste che non possono condurre un TG perché sovrappeso. Accade dove? Non in Italia, ma in Egitto, nell'estate delle polemiche sul burkini in spiaggia, sulle atlete cicciottelle alle Olimpiadi di Rio. Ci aggiungiamo anche questa. Su tutti questi argomenti potete intervenire in diretta all'800 24 00 24. Partiamo magari proprio sulla vostra idea di Europa e partiamo oggi dunque con il vertice di Ventotene. Si ritroveranno Renzi, Merkel, Hollande al largo di Ventotene, proprio dove Altiero Spinelli 75 anni fa ideava l'Europa unita, per parlare di un'Europa che ora scricchiola. Tra le varie emergenze, come accennato nella telefonata 3, l'economia da rilanciare. Italia e Francia condividono la crescita che si è fermata e cercheranno di far sponda con Berlino per strappare più flessibilità a Bruxelles. E allora ripartiamo, come abbiamo fatto spesso in questi giorni, proprio con i principali telegiornali nazionali che rilanciano questa notizia, che oggi probabilmente sarà anche una delle più importanti dei nostri giornali radio. Tutti i riflettori europei sono puntati sull'isola di Ventotene, Latina, la più meridionale delle isole ponziane, che ospita a partire dal tardo pomeriggio il vertice Italia-Francia-Germania. Non è un caso che sia stata scelta questa località, che accoglie la tomba di Altiero Spinelli, il padre del manifesto di Ventotene, di cui peraltro ricorre quest'anno il trentennale della morte, il manifesto con cui si gettarono le fondamenta del movimento federalista europeo, che aveva come scopo proprio la creazione di un'Europa federale. Uno sfondo certamente che per qualcuno è stato detto ha della retorica, ma è certamente uno sfondo significativo. È un vertice blindatissimo che si svolge in un momento delicatissimo per l'Europa, tutta in allarme per tanti motivi, su tanti fronti. Ognuno dei tre leader ha le proprie preoccupazioni da esprimere, da condividere reciprocamente. Ne parleremo con i nostri ospiti per capire cosa aspettarsi da questa giornata, che non dobbiamo dimenticare è anche un vertice mini preparatorio del vertice europeo a 27 che si svolgerà il 16 settembre a Bratislava. Allora cominciamo con il farci raccontare l'agenda del giorno dal collega inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi, che salutiamo. Gerardo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, hai scritto tanto tu in questi giorni, appunto proprio come pezzi preparatori a questo vertice. Il presidente del Consiglio Renzi accoglierà la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente della Repubblica Francese François Hollande all'aeroporto di Capodichino a Napoli. Il cerimoniale è molto complesso, si partirà dalla seconda parte, diciamo, del pomeriggio intorno alle 16 e poi alle 18 conferenza stampa sulla nave Garibaldi della Marina Militare. Intanto esiste, Gerardo, visto che le ricostruzioni dei giornali di questi giorni sono state molto articolate, un ordine del giorno preciso dei temi che verranno affrontati, oppure dobbiamo affidarci totalmente alle pure accuratissime ricostruzioni giornalistiche? Allora, innanzitutto il vertice si situa tra la riunione di Berlino della fine di giugno e la riunione di Bratislava. Per la prima volta la riunione di Berlino ha prodotto un documento. Di solito questi vertici, prima bilaterali, il direttorio franco-tedesco e da giugno anche con la giunta dell'Italia, c'è una discussione libera, non c'è mai un documento scritto, un ordine del giorno scritto. Da Berlino in realtà si comincia ad avere un'agenda abbastanza precisa e quindi già si sa che si dovrà parlare di Brexit, quindi di Bratislava, di come preparare Bratislava, dell'immigrazione, della lotta al terrorismo, di difesa europea, non certo fino all'esercito europeo, ma assetti comuni di difesa. E poi di crescita e quindi significa anche per noi flessibilità ai conti pubblici italiani, anche se su questo probabilmente esatto. Ci sarà un'occasione. Una chiacchierata molto informale, di formale poco. Esatto, ecco. Esatto. Quindi questa è la situazione. C'è da dire questo è il primo vertice di un gruppo di paesi del plotone di testa, come si diceva una volta, il vagone di testa, che si riunisce in Italia. L'Italia è sempre stata un po' sul predellino di questo gruppo di testa, dipendeva un po' da chi era il primo ministro. Monti non ci riuscì mai, Berlusconi e neanche Prodi. Monti riuscì a essere invitato a Strasburgo nel 2011, però poi non fu più invitato, quindi insomma era un po' una presenza occasionale. Per la prima volta l'Italia è dentro, non solo, ma è anche ospite di questa riunione. Ventotene, si è detto tutto, il luogo simbolico, Spinelli, arriveranno alle 4 con un elicottero della Marina, atterreranno su Ventotene, renderanno un piccolo omaggio alla tomba di Spinelli, non ci saranno i radicali, una delegazione dei radicali italiani, non ci sarà il movimento europeo, il movimento federalista, quello guidato da Virgilio D'Astori, che è stato il segretario storico di Spinelli. Non ci sarà la visita all'isolotto di Santo Stefano, dove c'è l'ex penitenziario e dove Renzi vorrebbe creare una sorta di foresteria per i giovani funzionari europei. Sono stati già allocati circa 60 milioni per la ristrutturazione di questo penitenziario, che è un penitenziario borbonico di pianta circolare con una torretta e mezzo, molto molto scenografico, dove Renzi andò a fare visita qualche mese fa. Poi sempre con un trasbordo sulla porta elicotteri Garibaldi, lì la conferenza stampa. Ecco, qui ci siamo abituati anche da Berlino che le conferenze stampa si tengono prima delle riunioni, in realtà anche per motivi insomma un po' di orari eccetera. Quindi ci sarà una conferenza stampa alle 18 e poi l'incontro e una cena a bordo della Garibaldi, sarà una cena di lavoro, e poi in elicottero ritorneranno a Capodichino, mentre noi lentamente con i 10-11 nodi in 3-4 ore raggiungeremo Napoli. Allora Gerardo, il primo vertice, come tu sottolineavi, fra Italia, Francia e Germania a livello di capi di Stato e di Governo, ospitato dal nostro Paese, è entrato ufficialmente a far parte del direttorio europeo a Berlino il 27 giugno scorso, subito dopo la Brexit. Un riconoscimento, quello dell'Italia, fatta salire nelle vagone di testa dell'Unione Europea, che molti presidenti del Consiglio prima di Renzi avevano tentato inutilmente di rincorrere. Ma, come dicevi tu ieri sul Sole 24 Ore, pur disponendo in partenza di ottime carte, l'Italia rischia di trasformare il vertice di Ventotene in una grande photo opportunity utile solo al premier Renzi per rilanciare la sua immagine nella delicata fase che precede il referendum sulle riforme di novembre. Perché ritieni questo? E tra l'altro ricordo che la famosa la photo opportunity è quella foto che tutti i capi di Stato e di Governo si fanno all'inizio o alla fine dei vari vertici, insomma quella dove sono tutti quanti insieme, super sorridenti, poi magari si sono scannati fino a 2 secondi prima sui temi al centro dei loro vertici, però insomma la photo opportunity è proprio questo. Perché hai questa idea? Sì, ma in realtà non soltanto è un problema la photo opportunity di Renzi, perché lui è il paese ospitante eccetera, ma non è soltanto lui l'unico che penserà alle questioni di politica interna, e si è visto ieri alla Versiliana che in realtà la sua preoccupazione maggiore è il referendum, le elezioni nel 2018 piuttosto che nel 2017. ma consideriamo anche che la Francia nella primavera prossima avrà le elezioni presidenziali, cominceranno le elezioni in Germania, le elezioni fino a quelle del Parlamento e poi del Cancelliere, quindi insomma ci troviamo di fronte a dei mesi prossimi in cui le questioni nazionali faranno necessariamente premio o comunque le questioni europee dovranno essere filtrate tutta da un'ottica di politica interna. Quindi è chiaro che i temi europei non è che vengano messi in secondo piano, ma per esempio anche la questione del piano straordinario per i beni culturali, esatto, per i musei, che vorrebbe rilanciare. In realtà questa è una cosa che dovrebbe premiare l'Italia e togliere dal patto di stabilità tutti i fondi che il Ministero dei Beni Culturali destina a questi beni culturali. Ma è il vertice giusto per presentare un maxi piano per la cultura italiana, secondo te, Gerardo? Cioè, che cosa c'entra questo argomento con tutte le emergenze e le priorità di carattere internazionale che appunto incombono sugli stati nazionali? In realtà c'entra in questo modo, in maniera indiretta c'entra sul terrorismo, cioè sull'identità europea. Renzi lo ha detto in Italia, l'ha detto a Bruxelles, per ogni soldo speso, per ogni euro speso nella sicurezza, nel rafforzamento dei dispositivi di sicurezza antiterrorismo, bisogna spendere un euro anche per la cultura, per rafforzare l'identità culturale europea, perché quello è il miglior deterrente per cercare di fare politiche inclusive per i giovani dei paesi del sud mediterraneo che sono diventati ormai cittadini europei, però rischiano appunto di essere catturati dalle ideologie radicali islamiste e quindi diventare poi al limite anche dei foreign fighters. E quindi in questo senso la cultura è una grande arma, un'arma contro il terrorismo. Io non so se questo sia il vertice giusto, anche perché di carne al fuoco ce n'è molta e i tempi sono molto ristretti, insomma, nella mezz'ora, 40 minuti di volo in elicottero con le cuffie non credo che i tre possano parlare tra di loro, se non in interfono, ma insomma non è certo un colloquio, certo, agevole. Sulla tomba di Spinelli insomma si sta in silenzio, ecco, non è che sarà poi, tanto esatto, opportuno, poi c'è la conferenza stampa in cui noi forse qualche giornalista italiano chiederà probabilmente del referendum e delle elezioni del 2018 e poi ci sarà la cena, il pranzo di lavoro dove poi cercheremo di recuperare un po' di materiale, ma insomma i tempi sono abbastanza ristretti e i temi sono tanti, però il vertice è simbolico e significativo, Gerardo. Allora, altro tema trasversale che tu segnalavi sempre dalle pagine del Sole 24 Ore, quello della governance europea, come rendere davvero efficaci ed efficienti le decisioni delle istituzioni europee, riformare i meccanismi di funzionamento del Consiglio europeo. C'è anche l'altro grande tema che peraltro adesso stamattina non abbiamo tempo di approfondire, mi riservo di farne un'intera puntata nei prossimi giorni magari, di ma che cos'è quest'estate, il tema dell'occupazione. Come verrà affrontato, perché c'è in ballo anche la questione dell'estensione del programma Erasmus, certo, per i giovani. Peraltro questo è un tema molto importante che affronterò poi magari dal punto di vista di Londra, perché insomma c'è tutto il tema della mobilità europea dei giovani a caccia di opportunità sia di studio che di lavoro. Insomma, questa estensione è un'idea italiana, in che cosa consisterebbe? No, sono cose che sono già state avviate a livello europeo. Si tratta di destinare più fondi all'occupazione giovanile. Insomma, peraltro mi pare anche strutturale garanzia giovani, se non mi ricordo male, il maxi piano europeo appunto di sostegno dei NEET. Questi sono programmi già avviati addirittura nella precedente commissione, addirittura da Presidente del Consiglio Van Rompuy e da Barroso, quindi insomma sono delle cose che vanno avanti. Bisogna implementarle, velocizzarle, perché la situazione in alcuni paesi, non soltanto l'Italia, per l'occupazione giovanile è drammatica. Quindi aumentare la possibilità di offerte di lavoro attraverso anche stage o quant'altro e collegare queste cose con lo studio, quindi la mobilità legata allo studio, è sicuramente una cosa fondamentale. Anche qui non si entrerà nel dettaglio, si dirà ne parleremo al prossimo Consiglio europeo piuttosto che in una riunione ad hoc dei ministri della ricerca e dell'istruzione. Ma è vero che il 31 agosto c'è un altro bilaterale Renzi-Merkel a Maranello? Allora, non è un bilaterale, è il tradizionale vertice bilaterale italo-tedesco con tutti i ministri, quindi con Padoan, Schäuble, con i vari ministri degli interni per quanto riguarda il terrorismo, il ministro della difesa per quanto riguarda l'industria della difesa. Insomma, è il tradizionale appuntamento bilaterale che anche qui, da un punto di vista evocativo, simbolico e quant'altro, Renzi ha ritenuto di dover tenere a Maranello, nella sede della Ferrari, e ovviamente la Ferrari non sta andando benissimo rispetto alla Mercedes. Insomma. Certo. Senti Gerardo, ti lasciamo, perché a che ora ti imbarchi tu, con che modalità raggiungi Ventotene, così togliamoci anche qualche curiosità, perché qualcuno pensa sempre che la vita di noi giornalisti sia veramente... certamente privilegiati, fortunati, facciamo un bel lavoro, ma la tua giornata sarà particolarmente intensa. Alle 10:30 sotto questo sole di Napoli, in fila indiana, andremo al molo Pisacane per imbarcarci sulla porta elicotteri, porta elicotteri e porta aerei. Tutta una questione anche interessante, perché fu Craxi a sdoganarla come portaerei, perché prima c'era la cosiddetta legge Balbo che impediva alla Marina di avere degli aerei propri, ma insomma adesso chiamiamola porta aeromobile Garibaldi. E poi alla volta di Ventotene salperà dal molo di Sagane alle ore 12 e arriveremo lì verso non prima delle 15:30, 16, insomma 3:30, 4 ore, lentamente ci avvicineremo. E in questo vertice a nord, esatto, intensissimo, cercherete di strappare qualche notizia appunto ai tre leader europei. Grazie a Gerardo Pelosi per essere stato con noi. Buon lavoro, buona giornata a Ventotene. Allora, Gerardo Pelosi è inviato del Sole 24 Ore. Seguiranno invece da Parigi e da Berlino, quindi dalle loro postazioni tradizionali, questo vertice italiano, Leonardo Martinelli, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Oggi scrive per La Stampa, ma è stato anche un nostro giornalista e lo ricordo sempre con grande affetto. E ricordo saluto anche Tonia Mastrobuoni, invece corrispondente da Berlino per Repubblica. Tonia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua. Allora vi chiedo 50 secondi di pazienza, perché sentiamo la pubblicità e poi commenteremo appunto con i colleghi il vertice di Ventotene visto da Berlino e visto da Parigi, e poi faremo anche una puntatina a loro. Ma cos'è quest'estate? Come vi dicevo, questa mattina che cos'è quest'estate? Affrontiamo il vertice di Ventotene. Al momento naturalmente facciamo tutta una serie di ipotesi, anche se ormai i giornali ne parlano da giorni, sugli argomenti che verranno toccati, ovviamente su di tutti la questione della difesa europea con l'allarme terrorismo che ha travolto soprattutto la Francia, ma ci sono poi di sfondo ovviamente le questioni della migrazione, la questione economica dirompente riguarda soprattutto noi che cerchiamo la sponda tedesca che ci possa supportare appunto in questa richiesta di maggiore flessibilità sul deficit, ma è già stato detto, non è un tema all'ordine del giorno dell'agenda formale di questa giornata, però è abbastanza probabile che sonderà ovviamente di nuovo Matteo Renzi e Angela Merkel su questo argomento, o almeno possiamo immaginarlo. E così Tonia Mastrobuoni, buongiorno di nuovo intanto. Però, esattamente, credo che nei colloqui privati Renzi proverà a sondare Merkel su questo, però la cancelliera primo è in campagna elettorale, perché fino a metà settembre c'erano due appuntamenti importanti per lei, Mecklenburg e Berlino, quindi tradizionalmente quando è in campagna elettorale Merkel concede pochi margini, come sappiamo. La Germania nei negoziati della primavera, che poi hanno portato a questa sospensione di giudizio, chiamiamola così, sui conti dell'Italia, ha giocato un ruolo molto timido, cioè non si è opposta, perché per un motivo molto semplice: per Merkel, per Schäuble, lo sforzo italiano di fare riforme e di aumentare la competitività è in qualche modo una compensazione per la mancata riduzione del debito e anche per gli sforzi, diciamo, meno ambiziosi sul deficit. Quindi su questo ci sarà un negoziato. Io credo che Merkel cercherà di non appunto parlarne più di tanto oggi, perché non la ritiene la sede adatta. Peraltro questa è una tappa sicuramente importante anche per Merkel, verso un tentativo di ricompattare un'Europa 27 molto traumatizzata dalla Brexit e appunto sfilacciata, no, in questo momento. Ma che tra l'altro inaugura una maratona negoziale che la porterà questa settimana ad incontrare i capi di Stato e di Governo, esatto, di una marea di paesi, no? Quindi che valore ha il fatto che inizi con Hollande e Renzi? Allora, il valore è naturalmente simbolico, anzitutto. Cioè, io non credo che al di là dei proclami possiamo aspettarci grandi come dire, manifesti di rifondazione dell'Europa o così. Merkel vuole evitare persino l'idea che ci sia un direttorio a tre. Cioè, sicuramente a lei fa piacere che ci sia un motore in questo momento che porta avanti determinate iniziative abbastanza importanti, come sappiamo, difesa comune, probabilmente oggi verranno annunciate anche, credo, maggiori sforzi su Frontex, quindi sulla difesa esterna dei confini della UE, eccetera, eccetera. Però è una tappa, ma è importante, ma è una tappa, perché appunto questa settimana, lo ricordavi anche tu, vedrà per esempio i quattro di Visegrad, cioè i quattro ribelli di Cechia, Slovacchia, Ungheria e Polonia, che si sono, come sappiamo, opposti con tutte le forze al piano per i migranti europeo. Quindi, ecco, tenere insieme tutti questi elementi e arrivare al vertice di Bratislava del 16 settembre vuol dire per Merkel in questo momento non tirare fuori assolutamente argomenti che possano disturbare, che possono irritare gli altri, a cominciare proprio da quello dei migranti, no? Cioè, si parlerà di migranti non in termini, che ne so, di ridistribuzione, che è un tema ancora sospeso, piuttosto si parlerà di un rafforzamento delle frontiere con Frontex, che può far piacere anche ai paesi dell'est. Mm-hmm. Un piano per i giovani, anche lì, chi può opporsi naturalmente a un piano per i giovani, no? Diverso il discorso appunto sugli investimenti, lì ci sarà uno sforzo, credo, sicuramente di trovare risorse nuove, forse di rivedere i bilanci, credo, in prospettiva. Questa è una cosa che Roma e Berlino vogliono da tempo, insomma, di rivedere proprio il bilancio UE, di rimodulare le poste. Però lì la Francia sappiamo che è un po' allerta, perché non vuole che si tocchino i bilanci, i soldi per l'agricoltura, insomma, solite cose. Quindi io credo che questa di oggi sia, dal punto di vista, almeno così mi dicono qui, dal punto di vista simbolico, molto importante, perché è la Garibaldi, quindi è un simbolo in qualche modo anche degli sforzi che si stanno facendo nel Mediterraneo, no? Per i migranti, ed è Ventotene, quindi l'isola appunto del manifesto di Spinelli. Tutto questo è importante per Merkel, però ripeto, in questo momento Merkel procede su, come dire, come si dice in tedesco, sulle uova, no? Cioè lei cerca, come si dice in tedesco, insieme 27. Come questo si è importantissimo, come per si lei dice, ecco, in tedesco, non... come si dice in tedesco, Tonia, procede sulle uova, often I and often, cioè lei sostanzialmente cerca di, appunto, di non creare motivi di irritazione, direi, no? Soprattutto, insomma, deve decidere se ricandidarsi alla guida del governo. Le resistenze interne sono molte, esatto. E quindi il risultato delle regionali di settembre, che è l'appuntamento al quale lei guarda naturalmente, sarà fondamentale. Aspetta lì un attimo, Tonia, perché adesso vorrei sentire anche la sponda francese e poi anche quella inglese. Abbiamo scomodato questa mattina un corrispondente storico da Londra per la RAI, Antonio Caprarica, che salutiamo. Intanto buongiorno Antonio. Buongiorno. E benvenuto. Buongiorno. grazie per la tua disponibilità. Però abbiamo fatto aspettare un bel po' anche Leonardo Martinelli, e quindi mi serve capire anche da Parigi che cosa si dice. Le priorità per il presidente francese Hollande sono diverse, c'è l'economia naturalmente, ma c'è su tutte la sicurezza, la nascita di una difesa europea, e il capo dell'Eliseo prospetta il lancio da qualche tempo di Eurobond per finanziare progetti militari comuni. Allora, con che biglietto da visita arriva Ventotene Hollande? Leonardo Martinelli, eccoci di nuovo a te. Beh, biglietto da visita, mi riallaccio un po' appunto a quello che diceva anche Tonia da Berlino, parlava di una Merkel che è in una fase preelettorale. Beh, anche Hollande ormai è in una fase preelettorale, qui in Francia fra 8 mesi ci sono le presidenziali. Non è ancora chiaro se Hollande si ricandiderà, però per tutta una serie di motivi, anche è tentato di farlo, mi pare di capire, che lui vorrebbe, diciamo, candidarsi, e probabilmente lo farà. È molto debole Hollande in Francia, l'ultimo più che debole è molto impopolare, forse, no, Leonardo? Molto impopolare, sì, infatti l'ultimo sondaggio che è uscito pochi giorni fa indicava come i francesi favorevoli a Hollande sono il 17%, quindi una percentuale molto bassa. Questi sono un po' anche dei dati importanti per capire come Hollande arriva a Ventotene. Ci arriva molto indebolito, e infatti le male lingue a Parigi dicono che la Merkel ha voluto coinvolgere Renzi in questo terzetto proprio perché ormai non si fida più tanto di Hollande, perché Hollande non ha più credibilità. Ci arriva anche, cioè, pensava che fosse più impopolare di lui addirittura, per cui e, diciamo che ci arriva Hollande anche agguerrito, perché appunto è ormai chiaro proprio negli ultimissimi giorni che lui comunque vuole ricandidarsi. Parlavi della difesa, sì, questo è diventato ovviamente un obiettivo prioritario per la Francia. Infatti una delle critiche a Hollande è proprio quella di non gestire in maniera, diciamo, corretta e efficiente la lotta al terrorismo. Quindi tutto il discorso di Hollande e della Francia, dei vertici francesi negli ultimi mesi, si è spostato molto su questo tema. E effettivamente una delle proposte che Hollande dovrebbe, diciamo, che già ha appoggiato, sostenuto negli ultimi giorni e che dovrebbe portare a Ventotene è proprio quella di introdurre degli strumenti finanziari a livello europeo, degli eurobond, oppure ricorrere a dei prestiti della BEI per realizzare dei progetti militari comuni, cioè una specie, diciamo, di anticamera di un esercito europeo. Questo anche diciamo, così dicono anche i consiglieri di Hollande. Io ho avuto un incontro con alcuni dei consiglieri che verranno proprio lì a Ventotene con Hollande, anche perché appunto il Regno Unito se ne andrà. Il Regno Unito era comunque è una potenza militare importante, quindi appunto la Francia anche in previsione di questo vorrebbe varare un tipo di progetto di questo tipo. Sempre legato alla sicurezza c'è anche un altro progetto che poi in realtà è un progetto della Commissione Europea, anche questo comunque sostenuto molto da Hollande, che è quello di un'esta all'europea. L'esta è l'autorizzazione al viaggio chiesta dagli Stati Uniti, fu una novità dopo il 2001, anche a tutti i paesi per i quali non è previsto un visto per gli Stati Uniti, e questo appunto vorrebbe essere introdotto anche per chi arriva alle frontiere esterne europee. Quindi c'è sicuramente da parte di Hollande un'attenzione fortissima a questo settore, anche perché lui, insomma, è un po' vittima di quello che succede a casa sua. Cioè oggi la raffica di attentati che hanno colpito la Francia nell'ultimo anno e mezzo, ecco, questo naturalmente è comprensibile che per lui sia il principale tema nella sua testa e nell'agenda appunto che vorrebbe proporre oggi a Ventotene, ma da qui anche ai prossimi vertici, immaginiamo anche Bratislava, no, Leonardo? Sì, certo, è diventato prioritario e, come dicevo, c'è proprio un legame diretto con questa situazione interna e con queste presidenziali che comunque indirizzano in un certo senso il suo atteggiamento, il suo ruolo proprio in questi mesi. Volevo anche riallacciarmi a un altro argomento che avevi trattato prima con Gerardo Pelosi, cioè il fatto appunto di questo insolito, inusuale terzetto. Io ho appunto chiesto anche dei consiglieri di Hollande com'è che è venuto fuori, e la risposta è stata proprio Renzi in un certo senso si è meritato questo, perché forse me l'ha detto anche con un po' di invidia, perché le riforme le ha fatte, per cui tutto sommato ha messo in pista E quindi è andato avanti, come dicevo, forse l'hanno detto un po' di invidia, perché i francesi, diciamo, da questo punto di vista non sono proprio riusciti a centrare tutti i loro obiettivi. E poi proprio lo stesso consigliere di Hollande mi ha detto, e poi tutto sommato credo che, vista la scadenza elettorale del referendum, Renzi ne abbia proprio bisogno di questo. Tu hai intervistato questo economista, Philippe Aguillon, che è professore appunto in Francia, che ammette che ovviamente la crescita è un problema per tutti i paesi europei, ma su questo campo e non solo, l'Italia ha degli sforzi enormi, poi che siano piaciuti o meno, che abbiano messo in una condizione di sicurezza politica Renzi, qua non lo sappiamo ancora, c'è il test del referendum fondamentale appunto in autunno, ma la Francia comunque tanti sforzi non ne ha fatti, ha avuto altre priorità, per cui peraltro questo economista ammette anche adesso vi meritate sconti sul deficit. Adesso non so quanto peso abbiano le parole di questo economista, però insomma che lo dicano anche in sede europea ci fa anche piacere. Poi vedremo appunto se la signora Merkel sarà disponibile ad una chiacchierata informale, come dicevamo, su questo. Ti chiedo un attimo di pazienza, Leonardo, perché in realtà poi volevo anche parlare dell'altra grande idea di Hollande, che è quella di raddoppiare il piano Juncker per rilanciare l'economia del vecchio continente. Poi la questione della democratizzazione dell'Erasmus e dell'allargamento del bacino di utenti del programma di mobilità degli studenti europei, c'è anche nella sua testa, naturalmente, anche se diceva appunto prima Gerardo Pelosi che è un tema non attualissimo, ma che comunque in realtà diventa attualissimo con la crisi occupazionale dei giovani in Italia in particolar modo, per cui abbiamo anche questi argomenti. Fra un po' abbiamo la prossima pausa, però magari una piccola flash con Antonio Caprarica. Voglio farlo, non chiedendogli se ha già preso la metropolitana notturna adesso aperta 24 ore su 24, perché la notizia del momento da Londra è diventata quella in questi giorni, ma insomma, che cosa ne pensa di questo vertice con il grande convitato di pietra che è Londra? Ma naturalmente lo sguardo inglese su questa vicenda è molto più distaccato e disincantato, come è del tutto logico, insomma, anche la tensione sui media è piuttosto periferica, se si escludono testate storiche come il Guardian, che non sempre ha avuto un'attenzione verso il continente e verso i temi dell'Unione Europea. Però proprio sui giornali e tra i commentatori e gli osservatori che più si occupano di Europa si coglie questo atteggiamento molto dubitoso, insomma molto, molto scettico, diciamo, riguardo a questo appuntamento di Ventotene. Sì, il valore simbolico è quello che viene naturalmente sottolineato, però il punto vero e l'osservazione che si fa a Londra è che dopo tutto la Brexit, che nelle idee di molti, da tutte e due le parti per la verità, da tutte e due le sponde della manica, avrebbe dovuto produrre più chiarezza anche e soprattutto all'interno dell'Unione, sembra invece avere seminato più confusione. Una conclusione che non sembra affatto azzardata, anche alla luce delle cose che avete finora rilevato. Insomma, intanto c'è l'atteggiamento tedesco, parliamoci chiaro, c'è una signora Merkel che qui a Londra viene guardata oggi con una certa preoccupazione, insomma si vede un governo di Berlino molto incerto sulla strada da seguire, molto meno convinto che in passato della validità di un progetto europeo, insomma tutte le battute di Schäuble piuttosto che un'Europa più integrata, meglio un'Europa migliore, insomma, quindi questi passi e questi temi verso una risposta di maggiore integrazione alla secessione inglese invece vengono giudicati molto confusi, pasticciati e incerti. E guardando a Ventotene, gli inglesi immaginano che nella discussione di oggi ci si occuperà soprattutto di due temi, insomma la persistente crisi dell'Eurozona, perché questo è un dato che non può sfuggire a nessuno, come esatto, ovvio. Esatto, e sulla quale la Brexit ha dato un colpo di grazia, direi non indifferente. Ecco, certamente, ecco. Ma naturalmente questo non è un problema che gli inglesi avvertano come no, un loro mi pare, problema. Infatti. E dall'altro punto di vista la questione dei migranti, anche qui c'è un'Europa che sul tema dei migranti appare ancora in confusione con il gruppo di Visegrad, con i governi. Ci fosse Londra, Antonio, al tavolo di oggi, su questo argomento che cosa proporrebbe? Ma la verità è che il tema che sta più a cuore agli inglesi non è tanto l'afflusso dei migranti extracomunitari, è il problema dell'immigrazione interna all'Unione. Quindi la verità è che per quanto riguarda gli inglesi, che poi è stata la ragione vera della vittoria del Leave nel referendum, il tema era la paura di questa efficace concorrenza dei migranti all'interno dell'Unione. Il movimento dall'interno dell'Unione verso l'Inghilterra, vista e considerata come una terra di opportunità, era però vissuto ed è ancora vissuto dagli strati più deboli di quel paese, di quella società, come un rischio mortale per le chance di chi in Inghilterra è nato. Che cosa potrebbe proporre oggi? Ma insomma, gli inglesi, come è noto, non arretrano mai quando è necessaria o quando la reputano necessaria, non arretrano mai anche dinanzi alla eventualità di un uso spregiudicato della forza, ma qui dinanzi alla ondata migratoria che viene dal sud del mondo, onestamente non credo che nemmeno Londra abbia delle idee molto chiare e nemmeno la signora May certo potrebbe proporre una ricetta totalmente efficace. La questione che oggi gli inglesi si stanno ponendo intanto è di come portare avanti questa secessione. E come vedete anche qui la cautela regna, prudenza regna sovrana. Tra chi era all'inizio, l'indomani del referendum, è naturalmente portato a dire vabbè, volete uscire, allora fatelo molto rapidamente. Poi abbiamo capito che ci costa molto questa uscita dirompente della Gran Bretagna dall'Unione Europea, per cui si procederà adesso con un po' più di calma, e anche qui le idee fra tutti i leader non sono particolarmente chiare. Però Tonia Mastrobuoni, volevo chiederti un commento proprio su questa indicazione che ci ha dato poco fa Antonio Caprarica, appunto da Londra, di una Londra che appare preoccupata per l'atteggiamento di Berlino sulla nuova confusione europea. Quindi insomma viene a Berlino addirittura questa considerazione, che non so se reputate pertinente o meno. Ti chiedevo un commento, ma te ne chiedo anche un altro sul fatto che comunque Angela Merkel, non so mai se dirlo con la G o G, arriva a ventotene anche con questa iniziativa che ha preso la settimana scorsa del bando parziale del burka. Mi rendo conto che politicamente, internamente, forse un'iniziativa di questo genere, sempre per ragioni elettorali, era necessaria, ma anche lì, in vista dei tanti vertici appunto in programma, era il momento di andare avanti anche con un'iniziativa interna di questo tipo? Parto dalla fine. Dunque, il bando del burka, anzitutto, per ora è una proposta della parte della maggioranza della CDU. Su questo si è espresso il ministro degli interni De Maizière, con pieno appoggio, con la delega anzi di Angela Merkel, che non si è sporcata troppo le mani sulla questione. Ha fatto un solo intervento. Ha fatto fare il lavoro sporco a qualcun altro. Esatto, ha lasciato il lavoro sporco. Devo dire però, in giorni in cui è stata molto coraggiosa su un altro fronte, perché nonostante gli attentati di luglio qui in Germania, ha continuato a dire ce la facciamo, insomma lei continua ad essere generosa sui profughi, lo è meno sul burka, che lei ritiene un qualcosa che sicuramente non aiuta l'integrazione. Quindi lei su questo si è espressa, dopodiché ha detto deciderà De Maizière. Questa proposta è ovviamente funzionale, soprattutto alle elezioni in Mecklenburgo, che ci saranno all'inizio di settembre, che sono elezioni guardate con orrore dai due partiti di governo, che peraltro governano anche lì con una grande coalizione, cioè la CDU e l'SPD, perché l'AfD è data al 19%. Cioè i partiti, i populisti di destra di Farrokke Petri sono dati lì a percentuali mostruose, se pensiamo che è la prima volta che si presentano a queste elezioni regionali. Quindi insomma questo preme un po', e quindi uno slogan di destra può aiutare la CDU in questo momento ad andare incontro a questo appuntamento. De Maizière ha tenuto a freno anche, diciamo, le richieste più estreme, che erano quelle di un bando totale, che sono venuti proprio dai ministri degli interni CDU dei due land dove si vota, l'altro è il Berlino, no? Quindi c'è una posizione, diciamo, forte sul burka, secondo me abbastanza insensata, perché io ho fatto un giro, diciamo, è vero, tu avevi un reportage a Berlino. La sensazione che hanno i turchi, per esempio, che sono una ovviamente i turchi sappiamo tutti che le turche non portano il burka o il niqab, cioè portano spesso l'hijab, portano il velo che però tiene scoperto il volto, sì. Esatto, quindi non avrebbero interesse a intervenire su questo tema, a sentirsi colpiti a questo tema. Eppure i turchi che ho intervistato, che ho sentito, sono tutti molto arrabbiati, perché percepiscono questo bando parziale come una sorta di attacco a tutti i musulmani, e su questo noi dobbiamo riflettere molto. Perché appunto loro dicono tutti il burkini dovrebbe essere libero, e qui la discussione sul burkini non c'è proprio, perché il problema per i tedeschi, o almeno la scusa per imporre questo eventuale bando del burka, è il fatto che ci sia il viso coperto, no? Quindi lo slogan della CDU adesso, dei Cristiano Democratici, è sul volto scoperto, insomma bisogna mostrare la faccia, insomma cose così. Quindi questo è un elemento su cui noi dovremmo riflettere, perché i musulmani, anche quelli più pacifici, ricordiamo che la Germania da 50 anni ha un'immigrazione pacifica musulmana, che è quella proprio turca, no? Ma anche iraniana, siriana, eccetera. Ecco, anche i più moderati sono un po' irritati, sono un po' offesi, perché dicono perché dovete colpirci su questo, no? Su un aspetto. Sulla confusione che regna in Europa e sui passi sempre molto timidi di Merkel verso una maggiore integrazione, è verissimo quello che dicevate, cioè fino al 17, fino all'anno prossimo, alle elezioni politiche, Merkel non farà nulla di clamoroso, proprio perché ci sono paesi riluttanti nell'Unione Europea ad andare oltre, che hanno un elettorato che si sta spostando a destra, quindi che si sta rinazionalizzando. Voglio citare un esempio, al vertice di oggi secondo me si parlerà di Turchia, ma Merkel cercherà di tenere questo tema il più coperto possibile nelle dichiarazioni ufficiali. Perché? Perché la Turchia è un argomento di grande irritazione per molti paesi. Cioè, mentre Merkel continua a difendere l'accordo UE-Turchia e i numeri sembrano darle ragione almeno su quella sponda dell'Egeo, e a fine agosto il vice ministro degli esteri Michael Roth sarà proprio ad Ankara per incontrare alcuni esponenti del governo e sondare gli umori su quell'accordo, sappiamo che altri paesi hanno fatto della Turchia addirittura un argomento di campagna elettorale, penso all'Austria, cioè non solo la destra ma anche i partiti di governo in questo momento stanno dicendo che non vogliono la Turchia nella UE, cioè anche i socialisti, i cristiano-democratici al governo. Questo naturalmente è un elemento grosso di riflessione, perché ripeto, la Turchia sarà uno dei grandi temi dell'autunno, è un tema anche che spacca l'Europa, e gli altri temi, per quanto oggi Merkel possa cercare di trovare delle convergenze, no, dei temi, dei punti di convergenza, ma insomma quali sono questi grandi punti di convergenza in questo momento? Cioè, lo dicevo anche prima, c'è un problema che è ancora sospeso, quella della redistribuzione dei migranti. Che cosa facciamo lì? Cioè, l'accordo UE-Turchia prevede che poi ci sia anche una redistribuzione. Non se ne può non parlare in eterno, no? E poi appunto dopo la Brexit Merkel non ha intenzione di fare grandi rilanci, no? Contrariamente forse a Renzi inizialmente, quando c'è stato appunto il trauma del referendum. Però quanto possiamo andare avanti così? Chiudo dicendo che c'è un elemento che mi fa un po' paura, che ho colto qui sia dalle parti del Ministero delle Finanze, quindi il Ministero di Schäuble, sia dalle parti della Cancelleria, cioè c'è una stanchezza nei confronti dell'Europa in questo momento e non credo che queste proposte di una sorta di coalizione di volenterosi su alcuni temi, no? Che sappiamo è uscita già l'anno scorso, che hanno messo insieme insomma gli olandesi, i tedeschi, così. Cioè, questa idea di andare avanti con un'Europa che si coalizza su alcuni temi, alcuni paesi, è partito anche diciamo un programma del genere sulla difesa, ecco, io lo trovo un po' poco ambizioso, per dire poco, però è anche un segno di stanchezza. Cioè, la Germania forse dopo il caso Grecia, dopo tutta una serie di casi, non so come dire, ancora meno voglia di fare da traino su certi temi, no? Certo. Cioè, è un po'... E certamente è meno motivata ancora a farlo in un momento, sì, in cui da qui ai prossimi mesi dovrà occuparsi quasi esclusivamente delle questioni politiche interne. Ti ho lasciato argomentare a lungo, Tonia, perché mi piaceva molto appunto il tuo ragionamento concluso sulla questione della stanchezza un po' nei confronti di questa Europa che invece cerca una nuova dignità e chissà se potranno partire delle buone ricette, quantomeno negli intenti, proprio oggi da questo vertice molto atteso, appunto tutto italiano, da Ventotene, dove l'Italia si è riguadagnata un ruolo di prestigio appunto in questo direttorio europeo da cui manca adesso Londra. Non riusciamo a fare gli altri argomenti che avevo in programma, ma parleremo ancora a lungo nei prossimi giorni di quello che succederà oggi, per cui ringrazio Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per La Repubblica, Leonardo Martinelli da Parigi per La Stampa, Antonio Caprarica appunto da Londra, storico corrispondente della RAI, dalla capitale appunto britannica. Per adesso ci fermiamo, c'è il giornale radio, ma noi torniamo subito dopo. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? Sta nascendo un mondo parallelo che sembra riportarci indietro, ma crea valore proprio in senso economico. Sta crescendo la cultura della condivisione dell'auto, dell'appartamento, delle competenze, cose che si sono sempre fatte, solo che si fermavano al cortile di casa, adesso esplodono in rete e diventano impresa alla portata di tutti. E questo non c'entra niente con la crisi, è proprio un mondo che si sta riorganizzando. Un mondo parallelo, lo definisce Milena Gabanelli a Report. Parliamo di quello che possiamo certamente definire invece il fenomeno, non so, degli ultimi 10 anni, la sharing economy, e ha suscitato davvero una certa attenzione alla notizia a cui avranno fatto caso soprattutto quei consumatori che negli ultimi anni si sono appassionati di sharing economy, all'economia della condivisione che ha fatto esplodere appunto i fenomeni come BlaBlaCar, Airbnb, lo scambio casa, poi Enjoy, Uber per certi versi. Allora, i milanesi in particolar modo conosceranno certamente le Car to Go, le società di noleggio appunto di auto, si scarica un'applicazione sul proprio smartphone, si individua l'auto più vicina alla propria postazione, alla propria abitazione, alla propria necessità, si sale, si utilizza l'auto fino a quando se ne ha bisogno e poi naturalmente la si parcheggia. C'è un abbonamento da pagare che può essere mensile, annuale, insomma poi tutte le società che si sono presentate sul mercato hanno fatto delle proposte commerciali diverse. Ma che cosa è successo? Che Car to Go a Milano ha deciso non solo di vietare di portare l'auto noleggiata in alcuni quartieri appunto della città, ma a quanto pare nei nuovi abbonamenti si è spinta anche oltre, cominciando a vietare anche viaggi in alcune regioni del sud Italia. E qui naturalmente apriti cielo, è successo di tutto. La notizia l'ha scoperta una collega di Repubblica che salutiamo, Oriana Liso. Buongiorno Oriana. Buongiorno. Allora, ce la racconti per bene intanto come tu sei una fruitrice di questi servizi, come hai fatto a scoprire appunto che Car to Go aveva deciso di vietare viaggi in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. E Sicilia, sì. E l'abbiamo scoperto perché a diversi colleghi, io non ne sono una fruitrice diretta, ma ho diversi colleghi che usano Car to Go, è arrivata una mail che informava di alcune modifiche a partire dal 15 settembre. Già lo scorso anno Car to Go aveva comunicato in estate, in piena estate, una decisione che riguardava i luoghi in cui si poteva lasciare l'auto a Milano senza pagare una sovratassa. E quindi mi sono incuriosita e ho detto: guardiamo bene questo contratto, questo nuovo contratto, per capire se c'è qualcosa di particolare. E in effetti c'era questa novità: non si può portare l'auto, non si può proprio guidare fino alle regioni del sud Italia, non tutte, perché il Molise è stato escluso da questa da questo divieto. Lì si sentono più tranquilli, evidentemente, chissà. Evidentemente come in Molise ci si sente più tranquilli. Esatto. E non si può portare l'auto all'estero. Che non si potesse portare l'auto all'estero era un divieto che esisteva già. Sono state introdotte le regioni del sud Italia senza nessuna spiegazione all'interno del contratto. Anche perché, a parte delle spiegazioni poi all'interno del contratto, Oriana, mi pare di capire che anche contattare, l'abbiamo fatto anche noi venerdì, la società per farti spiegare questa, che poi potrebbe, voglio dire, dal punto di vista commerciale un'azienda è un'azienda, fa anche quello che vuole, nessuno naturalmente ha niente da ribattere. Certo è che incuriosisce un po' il fatto che vengano escluse proprio certe regioni in particolar modo. Ecco, tu hai provato a contattarli? Io ho provato a contattarli il primo giorno, quando ho letto il contratto la prima volta, e non sono riuscita a parlare con nessuno dell'ufficio stampa, con l'amministratore delegato di Car to Go. Ho inviato mail anche all'indirizzo dell'ufficio stampa, non mi hanno mai risposto. Non mi hanno mai risposto neanche su Facebook, dove invece, per fortuna, e devo dire questo lo stanno facendo molto assiduamente da giorni, i social di Car to Go rispondono invece agli utenti normali, a non giornalisti, che si arrabbiano o chiedono spiegazioni per questa decisione, e la motivano dicendo che così vogliono controllare meglio la loro flotta di auto, e non c'è nessun intento razzista. Possiamo crederli, ma sarebbe stato bello sentircelo dire di persona quando abbiamo provato a chiederglielo. Infatti. Allora, tra l'altro, loro si sono un po', da quello anche che ho potuto ricostruire, alcune notizie che ho trovato su internet, a una classifica rilasciata dal Ministero dell'Interno, dal Viminale, sui furti d'auto. E naturalmente in queste regioni che sono state adesso vietate c'è un numero molto alto di furti ogni anno, su tutte campeggia la Campania, ma questo è insomma un tema che peraltro anche nei nostri programmi abbiamo affrontato tante volte quando parliamo del costo delle assicurazioni in queste aree, e di conseguenza appunto Car2Go si è organizzata di conseguenze, magari che non sia che qualche altra società ne approfitta appunto invece per rendere disponibili le proprie auto anche per andare in queste, poi il mercato insomma fa le sue scelte, no? Oriana, grazie, sì, avevi qualche cosa da aggiungere su questa notizia? Dico, diciamoci la verità, è difficile che da Milano qualcuno prenda un'auto a noleggio con quel costo che può avere guidarla per tante ore, arrivare in Sud Italia e tornare indietro, sicuramente quasi nessuno lo fa o lo avrebbe fatto. È che loro sono anche a Roma, ecco. Magari però un romano per andare in Campania magari la tentazione ce l'aveva. Esatto, certo che da Torino in, da Torino in Sicilia non ci arrivi con Car2Go, magari scegli dell'altro, però loro per non saperne leggere né scrivere l'hanno messo nero su bianco: fate quello che volete, pensatela come la pensate, ma noi intanto non vi ci facciamo andare, non è possibile con le nostre auto. Oriana, grazie per essere stata con noi appunto, e adesso volevo commentare questa notizia con una serie di ospiti. Intanto saluto Marco Pierani, responsabile delle relazioni esterne di Altro Consumo. Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a voi. Perché abbiamo interpellato Altro Consumo? Beh, perché le associazioni dei consumatori ovviamente monitorano questo fenomeno da tanto tempo, lo sostengono evidentemente perché tutto ciò che va a vantaggio e a beneficio dei consumatori piace, ma soprattutto perché voi organizzate a Milano il 24 e il 25 settembre il Festival della Sharing Economy con una marea di personalità che verranno a raccontarci un po' come sta andando questo mercato, quali sono le novità del momento, i fenomeni del momento. Ce lo vuoi raccontare? Intanto vuoi partire da un commento su questa notizia tutta milanese che magari... un commento su questa notizia mi sembra un grosso scivolone per Car2Go, spero che ritornino indietro. D'altra parte, come dicevi prima, il mercato farà il suo gioco e probabilmente qualcun altro fornirà servizi che saranno meno limitati. La sharing economy è una cosa che serve a dare più libertà di scelta al consumatore, quindi questa limitazione sembra veramente assurda. Peraltro probabilmente pochi utenti di Car2Go avrebbero fatto quest'uso, quindi insomma direi uno scivolone in termini di comunicazione come minimo. Detto questo, a prescindere dalle scelte di Car2Go, il tema della sharing economy, del car sharing appunto, sono dirompenti nel dibattito economico attuale. Un mondo parallelo, come lo definiva Milena Gabanelli al Report, è stato definito in ogni modo. Fatto sta che sono sempre di più i consumatori che in qualche maniera in un settore e in un altro appunto si affacciano su queste modalità anche per risparmiare, ma in realtà, Marco, forse questo è il caso di sottolinearlo, chi si spinge nel terreno della sharing economy, nelle varie modalità con cui questa si esprime, lo fa spesso e volentieri più che altro per una scelta di carattere, vorrei dire, quasi etico, no? Più che economico. Condividi o no? C'è anche questa scelta, ci sono vari stimoli ad adottare scelte che vanno verso la sharing economy. Alcune sono di tipo più etico, altre più di tipo spinte verso il risparmio, ma sicuramente io non lo definirei, non sono tanto d'accordo con Milena Gabanelli quando si definisce un mondo parallelo. Questo è il nuovo mondo, si parla di sharing economy, io parlerei di economy. Noi ci facciamo un festival perché riteniamo che questo sia un nuovo paradigma generale dell'economia. A noi cambia la vita come organizzazione dei consumatori, perché i consumatori diventano attori dell'economia, diventano allo stesso momento fruitori ma anche fornitori di servizi. Ci sono, quindi, dei miei amici che li chiamano consumatori adesso, proprio perché fanno queste scelte pienamente consapevoli di consumo. Sì, e chi l'ha sperimentato sa che è così, c'è una più ampia libertà, c'è anche un tema sulla regolamentazione e la legislazione che è affrontato, c'è una proposta di legge italiana, ma c'è anche la Commissione europea che sta studiando. Aspetta lì allora che mi faccio raccontare a che punto è la proposta di legge italiana, se sa dirci qualcosa di più l'onorevole Stefano Quintarelli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Politico, informatico, blogger italiano e molto così serenamente con Quintarelli ci si dà del tu, perché è stato anche direttore dell'area digital del gruppo Sole 24 Ore. Adesso non che interessi alla platea italiana anche questo aspetto, però mi piaceva sottolinearlo che qua stiamo parlando di una persona che questo mondo lo conosce molto bene, che viene chiamato appunto a presiedere anche tanti tavoli di confronto su questi argomenti proprio per la sua grande competenza. Allora, la legge e la sharing economy, che rapporto c'è in questo momento in Italia? Beh, intanto cominciamo da dire che non col dire che non esiste una definizione ufficiale di sharing economy, cioè il car sharing, se a ben vedere, è un auto a noleggio. Anche le auto a noleggio tradizionali di Avis, Hertz, eccetera, sono car sharing da un certo punto di vista. Quello che cambia è la modalità tecnologica e il frazionamento del tempo. Quindi diciamo che l'economia digitale che interviene nella modalità, nella gestione dei processi su modelli di business che erano già consolidati, il caso del car sharing. Poi ci sono gli altri aspetti che ricordava poco fa Marco, quello in cui i consumatori diventano anche attori, quindi consumatori come dicevi tu, e questi sono persone che mettono a disposizione proprio tempo, proprie risorse per condividerle con altre persone. Il disegno di legge, la proposta di legge che abbiamo fatto va proprio nella direzione di dare un quadro certo di regolamentazione a questo secondo categoria, a questo secondo tipo, cioè quello in cui i consumatori condividono tempo e risorse con altri consumatori. La legge è stata incardinata in commissione alla Camera e sta cominciando il suo iter, siamo ottimisti. Tra l'altro stavo pensando adesso alle mie esperienze di approccio con questo mondo e quello che io ho utilizzato è stato in particolar modo Airbnb, e mi ricordo una sera a cena con delle persone in cui ho fatto un dibattito anche molto vivace sulle questioni legate alla fiscalità, no? Di come debbano essere trattate anche certe presenze da parte di noi attori in questo mondo. Airbnb, su tutte, chi si approccia a Airbnb, tu hai una casa, vuoi affittare la tua camera appunto temporaneamente a degli avventori che hanno bisogno appunto di transitare nella tua città per un determinato periodo di tempo, c'è ancora molta confusione su come debba essere gestita fiscalmente per esempio questa tua soluzione. Quintarelli, ecco, la legge intende anche andare a chiarire un po' questi aspetti che per qualche consumatore ancora non sono chiari. Adesso un conto è prendere l'auto a noleggio con Car2Go, la prendi, paghi con la carta di credito e finisce lì. Altro tema è invece appunto quando tu diventi non solo fruitore della sharing economy, ma anche te ne vuoi fare, come dire, proponente commerciale, no? Come nel caso di Airbnb. Ecco, su questi aspetti ci sarà più chiarezza? Beh, assolutamente sì. Intanto diciamo che la legge prevede che se uno genera del reddito, il reddito concorre a tassazione, per cui se uno affitta una stanza in casa propria, comunque la deve dichiarare nei redditi diversi, già oggi. Quello che cambia con la nostra proposta di legge è che individuiamo una soglia sotto la quale prevediamo una riduzione del prelievo fiscale, in modo tale da incentivare questa forma di condivisione per le persone che integrano redditi di minima entità, cioè quando una persona ha delle difficoltà, l'idea è che possa in qualche modo intervenire mettendo in condivisione delle proprie risorse. Sopra questa soglia rientrano in gioco tutte le regole tradizionali, questa è la proposta di legge. Ora, le regole tradizionali, non si vede perché un albergo ha delle regole in materia di sicurezza, eccetera, un affittacamere ce li ha, un agriturismo ce l'ha, un'affittacamere che lo fa in modo tecnologico invece no, questo non va bene evidentemente. E quindi certo. Allora noi da qualche parte una riga dobbiamo tagliarla e abbiamo stabilito un livello di reddito sotto il quale queste attività godono di una particolare esclusione di oneri altrimenti gravosi. Certo, è possibile stabilire dei tempi per questa norma, Quintarelli, quando arriverà? Come qualunque legge nel Parlamento italiano non è possibile prevedere niente, a parte la legge di poi stabilità. Poi mi immagino già la pletora di provvedimenti attuativi che saranno necessari, anche se il tema non è una manovra di stabilità. In verità, noi abbiamo usato un approccio che sta riscuotendo abbastanza consenso in giro per l'Europa, abbiamo avuto numerose interlocuzioni con altri parlamenti, con la Commissione, perché noi deleghiamo in qualche modo, introduciamo un meccanismo di soft regulation, cioè la piattaforma che intende avere questi benefici per i propri utenti deve naturalmente essere censita, quindi registrarsi, una cosa assolutamente banale, presso l'autorità garante della concorrenza del mercato, che in Italia sia la concorrenza che il mercato, quindi sia il lato dell'offerta, certo, che il lato dei consumatori, e proporre, dichiarare quali sono le proprie policy, le proprie regole che applica, ad esempio di non esclusione di certe categorie di persone, piuttosto che o di certe regioni, per esempio, come nel caso di Cartugò. O di certe regioni. Poi sarà l'autorità, insieme con la piattaforma o con le associazioni di piattaforme che verranno a formarsi, che decideranno quali sono gli elementi minimi di regolamentazione. Certo. Questa è una forma di coregolamentazione leggera e, insomma, questo aspetto sta piacendo molto. Certo. Stefano, ti faccio un'ultima domanda, poi continuo con Marco Pierani, si è aggiunta anche un'altra ospite che fra un po' vado a salutare. Allora, noi abbiamo parlato di che impatto tutte queste novità hanno tra le nostre abitudini come consumatori e come consumatori, ma ti chiedo, secondo te, che tipo di opportunità c'è per il rilancio economico di questo nostro paese, che è a caccia di tante occasioni? E peraltro proprio anche nell'agenda del Premier oggi c'è Ventotene, ne abbiamo parlato a lungo nella prima parte della trasmissione, adesso faccio questo legame che a qualcuno può apparire anche bizzarro, ma non è così. Si parla di un rilancio ovviamente di tutte le tematiche culturali per il nostro paese, ma il turismo è naturalmente anche in cima alle possibilità che il nostro paese deve sfruttare per rilanciarsi, come dicevo, dal punto di vista economico. La sharing economy in qualche maniera può aiutare anche il sistema Italia in questo grande obiettivo che viene costantemente mancato? Sicuramente sì, ma più in generale è la reintermediazione tecnologica di processi tradizionali che può aiutare e deve aiutare tantissimo l'Italia. È stato presentato qualche giorno fa un piano strategico per il turismo, dove naturalmente la parte digitale è molto rilevante, perché oggi quello che io chiamo l'immateriale è diventata l'interfaccia utente del mondo tradizionale, del mondo materiale, la cosa con il quale il consumatore interagisce per avere accesso a servizi, prodotti, eccetera. E quindi è lì che dobbiamo fare un grande investimento. Dobbiamo fare un grande investimento e non solamente, cioè non a critico, non solamente per moda o slogan, dobbiamo anche capire bene i processi che ci sono dietro. Mm-hmm. Perché ricordavo un premier anni fa che diceva che il Colosseo ce l'abbiamo noi e se uno vuole venire a vederlo deve venire a Roma. Sì, il problema è che se tutto il viaggio te lo vende un altro che sta in Olanda, a te rimane solo da spolverarlo il Colosseo, diceva un altro amico. E quindi bisogna anche capire bene come diventare attori di questo sistema. Senta. E non solo utenti o consumatori. Anche perché, peraltro, quando parliamo proprio di utenti, ho un'altra ricerca che è stata elaborata dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, che spiega che siamo tra i primi tre paesi in termini di utenti e conoscitori, appunto, della sharing economy, dietro la Turchia e la Spagna. Abbiamo anche un identikit del fruitore, prevalentemente sono uomini sotto i 44 anni, con un alto profilo di istruzione, per la maggior parte provenienti dal nord, che sta il sud e le isole, lasciando indietro il centro Italia. Grazie a Stefano Quintarelli per essere stato con noi. Buona giornata, Stefano. A presto. Buona giornata a te, buona giornata Marco, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ecco, Marco Pierani, peraltro, le nuove frontiere della sharing economy. Allora, parte Airbnb, l'affitto delle case, l'affitto e noleggio delle auto, poi peraltro Uber anche. C'è un altro tema che sarebbe interessante trattare, perché non abbiamo capito alla fine che fine ha fatto tutta la polemica, la grande battaglia contro i tassisti. L'Uber Pop in particolar modo era sotto i riflettori, c'è questa possibilità data ad alcuni privati di rendere momentaneamente disponibile la propria automobile, appunto, con la modalità, appunto, taxi. Ma quali sono le nuove frontiere che esplorerete al vostro festival, appunto, di Milano, Marco? I nuovi fenomeni dei quali ancora non ci siamo accorti? Allora, noi adesso cito, ad esempio, mi viene in mente il social eating, c'è una realtà che è Gnammo in Italia che fa queste iniziative molto di condivisione delle cene o di eventi social. Noi sperimenteremo tutto quello che ha a che vedere con la sharing economy, tant'è che è un festival condiviso. Questa è la quarta edizione del Festival di Altro Consumo, le prime tre le abbiamo fatte a Ferrara, ci spostiamo a Milano, che è un po', diciamo, la capitale in Italia dell'innovazione, anche della sharing economy, tant'è che il festival è organizzato insieme al comune, che ha una rete di piccole iniziative, perché noi parliamo sempre di Uber, Airbnb, BlaBlaCar, anche Gnammo, una realtà pur italiana ma grande, ma ci sono tante altre piccole iniziative, quindi ci sarà tutto questo, e non sarà solo Altro Consumo. Altro Consumo vuole dare un po' la piattaforma. Il nostro obiettivo è proprio quello di fare in modo che il consumatore, direi qui più il cittadino, la persona, passiamo più dal concetto di consumatore a quello di persona, possa sperimentare e condividere queste iniziative anche al festival, quindi un'occasione per sperimentare, perché vorremmo abbattere quelle barriere che citavi tu, cioè in questo momento ancora la sharing economy viene utilizzata da persone che hanno una certa cultura digitale e che diciamo non è ancora stata sperimentata da tutti i cittadini e consumatori. Siccome a nostro avviso, lo vediamo sulla nostra base di soci, la sharing economy può far bene non solo all'economia del paese, ma anche ai singoli consumatori, a tutti i consumatori, noi vorremmo allargare e abbattere queste barriere. Il festival serve anche a questo, certo. Ovviamente. Sono certa che al vostro festival parteciperà una collega giornalista che anima quello che lei non ama definire un blog, ma un proposito, pane e sharing, perché racconta su questo sito, su questo blog, poi chiamiamolo come vogliamo, che per un periodo di tempo ha deciso di provare tutti i servizi della sharing economy, inclusi quelli che in Italia ancora non esistono, e chissà che cosa ha scoperto. Sicuramente si è guadagnata un posto in prima fila a tanti eventi e momenti della storia anche di carattere nazionale ed internazionale. Ringrazio e saluto per essere con noi Gea Scancarello. Buongiorno Gea. Buongiorno. Ho detto tutto correttamente? Mi pare sì. Pane sharing, allora, non è un blog ma un proposito, quasi uno stile di vita, sicuramente una raccolta di esperienze che tu hai fatto in questi anni approfittando anche delle opportunità della sharing economy. Sì, esatto, diciamo che è iniziato nel 2014. Stavo iniziando a fare anche delle ricerche per quello che poi è diventato un libro e ho visto, insomma, al posto di avere un approccio di quello che a volte abbiamo i giornalisti, cioè didattico, ho detto mi metto lì e provo tutto, e in effetti ho fatto delle scoperte, perché la cosa che più mi ha colpito, soprattutto in quel momento, che era un momento in cui alcune cose non erano ancora così note, oggi Airbnb, BlaBlaCar, sono diventati dei servizi che secondo me sono quasi mass market, all'epoca lo erano meno, ma quello che scoprì è che c'era tutto un mondo che viveva in modo alternativo e che restituiva un certo senso alle cose, perché per esempio adesso vi sto parlando da una camera affittata su Airbnb ad Amsterdam, e aver affittato una camera, posso che stare in un albergo, ti consente di entrare, certo, di vivere da local, come dicono anche a New York. Sì, e ti dà delle opportunità, perché il signore che mi affitta la camera è uno che mi ha impostato la testa per andare ai musei, mi ha spiegato come fare, cioè, insomma è tutto un altro mondo. È un altro spirito, un altro approccio. Peraltro Gea, adesso ho aperto intanto il tuo blog, il libro di cui parlavi è Mi fido di te, un nuovo modo di vivere con gli altri e salvarsi? Sì. Che ha peraltro la prefazione anche di un altro nostro amico che è Simone Perotti, per cui ad Amsterdam, che naturalmente avrai raggiunto anche con un volo low cost. Beh certo, vabbè, quello, non quello ormai è comune. Esatto. Diciamo che l'esperienza alternativa sarebbe stata arrivarci in macchina, ecco. Ma fai un Milano-Amsterdam con 19 euro. Ecco, sappi che non ci puoi andare con Car2Go perché all'estero non lo consentono. Gea, allora in tutta questa tua raccolta di esperienze, qual è quella di queste nuove frontiere che l'economia sta esplorando? Come dire, l'esperienza che ti ha colpito di più, quella che non ti aspettavi o comunque era un po' tutto già scritto, tu avendo anche una mentalità già così aperta a prescindere da tutto, probabilmente forse non ti, oppure c'è qualche cosa che nel tuo percorso ti ha colpito particolarmente? Guarda, sono le esperienze che riguardano il cibo e sono quelle più economiche in un certo senso, perché come dire, quando parliamo di spreco alimentare e di distribuzione sono cifre che impattano per decine e migliaia di miliardi di euro ogni anno, però in realtà sono quelle che nella loro quotidianità non riguardano denaro, cioè il fatto che la gente riesce a recuperare tutti gli scarti o tanti scarti da supermercati, mercati, negozi, si organizza, questo succede in Germania, in Austria, in Svizzera, e c'è un embrione proprio in questi giorni anche in Italia. Limite a disposizione della collettività, cioè li recupera, li seleziona, li porta in dei punti nella città dove vengono messe a disposizione di tutti grazie all'accordo con, non so, il proprietario di una casa con un giardino, il proprietario della scuola di lingue che ha un frigorifero e lascia il frigorifero in giardinetto, il circolo Acli o Arci, cioè ognuno di questi apre la propria casa, fa sì che la gente possa andare a prendere quello di cui ha bisogno, e si crea un circolo di volontari che tutti i giorni batte una serie di supermercati selezionati con cui si è fatto un accordo ovviamente per andargli a recuperare il cibo che avanza, sì. E in un anno si raccolgono intorno alle 600 tonnellate di cibo. Noi abbiamo invitato anche nei nostri programmi, esatto, per esempio Last Minute sotto casa dell'amico Francesco Ardito di Torino, che sta provando a portarlo in tutta Italia, esatto. Poi ci sono l'esperienza appunto di Andrea Segre da Bologna e dintorni, insomma un mondo che pure questo sta inevitabilmente sotto la piena contaminazione appunto della nuova modalità. Gea, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutte le tue prossime avventure. Cosa stai pensando dopo Amsterdam e con Airbnb, che ci sembra ormai il minimo sindacale? Su quali altre? No, ma questa è una canzone nostra, è il passo dell'Inghilterra, diciamo che sto lavorando su altri temi adesso. Però quello che si diceva prima ed è bello è che una volta che acquisisci le modalità, cioè che ti sei fatto contaminare, poi non si torna. È difficile indietro. Tornare indietro. Un volo in prima classe con Emirates, magari non te lo farai mai. Grazie a Gea Scancarello per essere stata con noi. In bocca al lupo. Grazie anche a Marco Pieriani di Altro Consumo. Dobbiamo aggiungere qualcosa sul vostro evento di settembre, Marco? Beh, un invito a tutti, certo, i tuoi ascoltatori a venire il 24 e 25 settembre al Castello Sforzesco a Milano. Ci sarà peraltro poi anche il guru dell'economia della condivisione. Beh, avremo Arun Sundararajan. Ecco, infatti volevo dire pronuncialo te perché io non me la sento. Ecco, poi nel mese che verrà ne parleremo anche, c'è un libro che lui ha pubblicato recentemente, ci verrà a raccontare proprio la sua visione sulla sharing economy, che è proprio una visione complessiva sull'economia e noi la condividiamo molto. Chiaramente ci sono anche dei punti critici sulla sharing economy, però noi abbiamo una posizione, siamo favorevoli a questo cambiamento. Per rispondere un po' al tema che avevi toccato anche parlando con Stefano Quintarelli, noi siamo anche convinti che questa cosa possa, se l'Italia l'abbraccia, possa far bene all'economia del paese. Ecco, quindi infatti vorremmo avere anche, stiamo invitando ospiti anche istituzionali europei e nazionali del governo e del Parlamento per dibattere su questo tema anche in senso costruttivo. Siamo anche pronti ad abbattere alcune tutele, per assurdo, no? Come consumatori, quando c'è una condivisione peer-to-peer. Cioè non vogliamo, ecco, per tornare un po' brevemente sulla legge, sono assolutamente favorevole a questa proposta di legge, peraltro sita da onorevoli come Stefano Quintarelli che conoscono la materia, però il rischio è quello di burocratizzare. Allora, la sharing economy è una cosa che non va burocratizzata, ma va promossa. Il nostro paese deve essere all'avanguardia su questo. Ottimo, grazie per tutti questi auspici a Marco Pieriani, responsabile delle relazioni esterne di Altro Consumo. Noi intanto andiamo in pausa e poi andiamo a parlare delle giornaliste, delle donne in un paese sono state escluse dalla conduzione del telegiornale. Sapete perché? Perché un po' troppo paffutelle. Succede dove? In Egitto. A tra poco. Ma cos'è quest'estate? Troppo grasse per stare in video, almeno secondo la TV di Stato egiziana. Per questo 8 giornaliste sono state sospese ed è stato dato loro un mese di tempo per perdere peso e avere quindi un aspetto appropriato. L'emittente inglese BBC riporta la notizia riprendendola da alcuni siti web egiziani. La decisione ha scatenato un forte dibattito nel paese, oltre che le proteste delle dirette interessate, in particolar modo della presentatrice di Canale 2, Khadija Khattab. La giornalista vorrebbe che fossero i telespettatori a giudicare se è veramente così grassa da dover essere sospesa. A sostegno delle conduttrici sovrappeso si è schierato il Centro per la Guida e la Consapevolezza Legale delle Donne, secondo il quale questa sospensione viola la Costituzione e si tratta di una vera e propria forma di violenza nei loro confronti. A capo della radiotelevisione egiziana c'è proprio una donna, la direttrice ed ex anchorwoman Safa Eghazi. E beh, questa è una notizia che abbiamo ritenuto di voler approfondire naturalmente nell'ultima parte della nostra trasmissione, perché veramente è caduta proprio in un momento anche molto particolare del dibattito sulle questioni estetiche delle donne. Abbiamo avuto, come sapete, da una parte la polemica che si è scatenata soprattutto sulla stampa italiana per le nostre atlete cicciottelle, che hanno portato anche alle dimissioni del direttore del quotidiano sportivo italiano, appunto, che le aveva definite come tali. E poi abbiamo avuto tutta la polemica del burkini, quindi naturalmente a me aveva colpito molto il fatto che proprio per la a Rio de Janeiro, dove si sono concluse questa notte le Olimpiadi, proprio le atlete di beach volley egiziane dovessero indossare il burkini, dovessero, o se avessero voluto appunto di loro spontanea volontà, e quindi proprio le egiziane con il burkini durante la partita di beach volley. Le giornaliste egiziane che però, se fanno la conduzione del telegiornale, devono essere dal punto di vista estetico ineccepibili, impeccabili, bellissime, magre, al punto da essere escluse, se non solo tali, dalla conduzione delle TG. Peraltro sono circolate anche sul web le immagini di queste giornaliste. Io ne ho una sotto gli occhi, sì, non parliamo di una donna particolarmente avvenente, ma curatissima, molto elegante, molto ben pettinata, per cui io non ci vedo, sia da collega che esprime tutta la solidarietà appunto, ma anche se fossi così non particolarmente complice proprio dal punto di vista femminile, mi pare di vedere una donna che non ha dei difetti estetici tali da dover essere esclusa appunto dal telegiornale. Oltretutto, la cosa che colpisce di più anche di questa vicenda è che hanno un mese di tempo per rimettersi a posto, non so cosa potranno fare. Qua poi entra in ballo tutta la questione anche delle diete veloci che fanno perdere chili in pochissimo tempo, i famosi 7 chili in 7 giorni. E poi c'è l'altro tema, che in questo mese di esclusione dal telegiornale non solo c'è un danno, c'è anche la beffa, non verranno neanche retribuite. Qua insomma ci sono tanti temi che possiamo commentare con i nostri ospiti di oggi. Io comincio, prima di sentire alcune colleghe giornaliste che ho interpellato sull'argomento, volevo sentire che cosa ne pensa un uomo, un antropologo che studia insomma tutti questi strani fenomeni e che chissà se si è appassionato anche a tutto il dibattito estivo sul corpo delle donne, coperto, scoperto. Qua ogni estate naturalmente ne dobbiamo parlare, in questa estate particolare il tema si è concentrato soprattutto le donne appartenenti a certi paesi. Marino Niola, antropologo, autore io di tantissimi libri, ricordo solo uno degli ultimi, Homo Dieteticus, viaggio nelle tribù alimentari. Professor Niola, dottor Niola, non so neanche mai come chiamarlo, è un amico di Radio 24. Intanto Marino, buongiorno. Buongiorno Deborah, chiamami Marino. Grazie Marino, antropologo che studia da sempre le relazioni che intercorrono fra cibo, cultura, società. Effettivamente in questa vicenda egiziana ci possiamo mettere dentro un po' di tutto. Come la giriamo? La giriamo, alla fine si parla sempre del corpo delle donne, qua non siamo mai contenti. Cosa colpisce particolarmente del caso egiziano, Marino? E colpisce proprio, come dicevi tu, il fatto che la lipofobia e il format ormai è diventato un imperativo categorico. Anche in paesi che sembravano immuni, no? come quelli medio orientali, dove, come è noto, il sovrappeso è tollerato un po' di più, sembrava così. Evidentemente la magrezza sta diventando un diktat universale, ma non solo la magrezza, ma anche l'aderire a certi canoni estetici, bellezza. E però io mi sono sempre chiesto perché nessuno chiede ai giornalisti maschi di aderire a certi canoni e di adeguarsi al format. Evidentemente vuol dire che c'è dietro una sorta di algoritmo perfido, di algoritmo perverso, che riduce le donne al loro corpo. Quello che peraltro no, mi stava facendo anche pensare che magari qua in Italia forse una cosa così dirompente non accadrebbe, o quantomeno magari non passerebbe, non andrebbe alla ribalta della cronaca. Certo è che magari una persona che esteticamente ritieni, come direttore di una rete, di un telegiornale, che non va bene, non glielo chiedi sin dall'inizio, non è che poi a metà percorso, se vedi che qua si tratta di 8 persone peraltro insieme, non si tratta di un unico caso, per cui qua si tratta che hai fatto una scelta sbagliata magari all'inizio, che adesso correggi, perché forse lì i canoni, appunto, come dicevi Marino, stanno cambiando anche in Egitto. Stanno cambiando in Egitto ed evidentemente vengono applicati però con una durezza e con un integralismo che sono un po' preoccupanti, anche se devo dire bisogna essere vigili anche da noi, perché non dimentichiamo che qualche anno fa se ricordo bene, una giornalista della BBC che era stata sospesa dal servizio perché si rifiutava di farsi il lifting, quindi anche in quel caso di aderire a un certo canone estetico, ha per fortuna fatto ricorso ed è stata reintegrata, però ha dovuto far ricorso. Vuol dire che lì anche perfino nella BBC, che noi spesso usiamo come modello, no? della democrazia dell'informazione, il direttore era roso da questo tarlo dell'oversize, questo terrore dell'oversize. In realtà c'è per un verso una lipofobia che sicuramente contagia oggi un po' tutti. Siamo appunto nella civiltà del 7 kg, del perdere 7 kg in 7 giorni. E però c'è anche vero che sulle donne questo diktat si esercita con una durezza molto maggiore che non sugli uomini. Infatti. Alla fine di tutto questo, in Egitto a guadagnarci saranno i dietologi. Ecco, certo, qualcuno deve pure guadagnarci, anche se non so appunto in un mese quanto potranno guadagnarci, perché hanno un diktat anche molto esplicito, appunto rimettersi in sesto nel giro di un mese. Quello che stavo considerando, Marino, è che, come dicevo prima, io ho la foto di una delle giornaliste colpite da questa esclusione, appunto persino senza retribuzione, rimarranno per questo periodo di tempo quasi come se avessero combinato chissà che cosa, no? Perché anche questo è veramente un aspetto che ha dell'assurdo. Però dicevo anche, insomma, una donna curatissima, molto elegante, quindi si vede dal viso che è un po' paffutella, ma non vedo neanche un'obesità di quelle insostenibili. Non è che stanno cambiando un po' lì anche? Ecco, c'è qualcosa di più profondo rispetto a questa scelta, rispetto proprio ad un modello estetico nuovo che si chiede in questo paese? Come si concilia anche questa vicenda con la questione dei burkini, che ha tanto animato i racconti appunto giornalistici delle ultime settimane? Perché c'è anche questa relazione da stabilire, non so in che maniera, Marino, ma sicuramente magari potrà essere oggetto dei tuoi studi delle prossime settimane. Da una parte copriamole quanto più possibile, soprattutto se sono belle, le atlete a Rio sono evidentemente quelle del beach volley con dei fisici eccezionali, da quest'altra parte qua però si devono rimettere in sesto esteticamente, perché sennò non le mandiamo in onda. Allora a questo punto metti il burkini, coprile tutte e mandale in onda lo stesso se sono professionali. Certo, però io credo che anche se le due cose sembrano opposte, da una parte il burkini che copre e dall'altra parte invece l'adesione al format della magrezza, però c'è un filo che le unisce, che ancora una volta in ogni caso le donne non sono libere di decidere di sé e del loro corpo. Quindi ho coperte, ho scoperte, in realtà non è tanto il fatto di coprire o scoprire che fa la libertà, ma è l'autodeterminazione e la titolarità del proprio corpo, perché nonostante tutto oggi le donne non sono titolari a pieno titolo di sé, del proprio corpo, della propria immagine, lo sono gli uomini, ci sono società dove questo è macroscopico. E società come la nostra, dove invece questo è più subdolo, più sottile, ma anche da noi siamo ben lontani dall'aver raggiunto davvero le pari opportunità. Infatti. No, tra l'altro poi in questi giorni qualcuno ha anche accomunato questa vicenda egiziana con tutta la polemica che invece ricorre più frequentemente sulle modalità con cui vengono sostenuti i colloqui di lavoro per qualsiasi posto tra una responsabile delle risorse umane e una donna, e ancora sono molto frequenti in casi in cui le domande sessiste hanno un grande spazio, purtroppo, e quindi immaginiamo, se ci sono queste domande, quanto possa aver valore anche la qualità estetica con cui ti presenti ad un colloquio di lavoro. Magari adesso, Marino, ci arriviamo. Prima però, sulla vicenda egiziana, volevo sentire anche delle colleghe per capire come la pensano, se ci hanno riso un po' su o se invece hanno attribuito a questo episodio un valore più profondo, appunto, perché non è proprio una vicenda tanto simpatica. Per fortuna, speriamo che non ne capitino spesso, ma chissà cosa succede appunto anche nei grandi telegiornali. Vi assicuro che qua Radio 24 non dovendo andare in onda, nessuno ci ha chiesto mai, potremmo anche andare in onda in tutta la ginnastica, però qua tante volte è chiaro che è il buon senso ad avere la meglio, ti devi presentare anche in maniera adeguata se decidi di fare certi lavori. ho scomodato a Londra Barbara Serra, che è una giornalista italiana ma ormai viene interpellata molto spesso anche nei talk show italiani perché in realtà ha un profilo super internazionale, conduttrice della redazione di Londra di Al Jazeera English. Barbara, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. A Che Cos'è Quest'Estate. Allora, il servizio è stato la questione appunto egiziana è stata enfatizzata moltissimo dalla BBC. Che ne pensi di questo episodio? Se posso iniziare, perdonami, correggendo una cosa, da quello che ho letto io, le giornaliste saranno retribuite per questo mese. Ah, c'è stato un dietrofront, io ho tre notizie ieri. Credo, almeno da quello che ho letto io, perché la notizia è uscita insomma prima del weekend, sì. Credo che verranno retribuite. L'altra cosa che trovo interessante è che la capa di Ertu, che è la televisione di Stato poi egiziana, è una donna. È una donna, sì, l'abbiamo detto. Che, insomma, non è comune in qualsiasi paese, sicuramente non è comune in Egitto, ed era anche lei proprio una ex anchorwoman. Perciò, insomma, questo credo che dia una dimensione diversa. Mi sorprendono varie cose. Allora, la pressione su gente in TV, soprattutto le donne, di apparire in una certa maniera, c'è in tutto il mondo. Credo che in particolare in Medio Oriente, io direi che loro sono sempre stati, guardando le tantissime televisioni, soprattutto private, sempre molto molto attenti al look. Anche gli uomini, soprattutto un po' come ovunque le donne, credo che la differenza che io noto è che c'è magari una maniera più modesta di vestire, che credo che per un mezzo busto alla fin fine equivale, che lì hai sempre una scollatura un po' più alta, perciò non hai mai veramente una scollatura. Questo non vuol dire che va in giro con il girocollo, però quella è una differenza che noto. In questo caso mi sorprende molto più che altro che la notizia sia uscita, perché spesso in tutto il mondo c'è pressione sulle donne. Non so dirti, ma io ho lavorato a Sky News qui in Inghilterra, o anche alla BBC, ho lavorato in America dove sono ossessionati con il look, perciò figuriamoci, le anchor americane sono, non vorrei dire senza ovviamente commentare la loro professionalità che è altissima, ma sono tutte uguali, pettinate quasi nello possiamo stesso modo, 500 donne, tutte delle Barbie, fa eccezione Oprah Winfrey, che in realtà ha, come dire, dei requisiti estetici molto diversi rispetto alle anchor dei TG americani, e che ha fatto invece forse anche delle sue questioni di difficoltà di perdita di peso una delle grandi ragioni del suo successo, no Barbara? Però vedi, lei è la persona, non solo la donna, ma la persona in TV di più successo in tutto il mondo, perciò è interessante vedere come la persona in TV con più potere è proprio una donna che non è una taglia 38. Certo. Però io credo che lì hai una situazione in cui è molto la personalità di Oprah, e vedi anche giornalisti e giornaliste, quando è la tua personalità, quando tu sei lì veramente per quello che hai fatto, per quello che hai visto, eccetera, allora i canoni di bellezza credo che quasi non contino. Però con tantissimi nuovi canali televisivi, e soprattutto in Medio Oriente, questa è la TV di Stato che era vista un po' come ingessata, ora c'è molta competizione, perciò magari stanno cercando un po' di muoversi, fare ovviamente un refresh, esatto, partendo però anche da uomini, questo. Sono sicura, non guardo molto Ertu, ma mi immagino che non siano tutti dei modelli con fisici olimpionici. Perciò, Barbara, ovviamente ti chiedo un minutino di pazienza perché abbiamo ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, Paolo? La pausa? Aspetta un attimo, che siamo un po' in ritardo anche su questo, siamo proprio in versione estiva un po' tutti quanti. Allora, io intanto ne approfitto per salutare un'altra collega bellissima, ma è super professionale, una delle giornaliste in tema di sport più competenti che abbiamo sul mercato, Anna Billosca, Sport. Buongiorno Anna, benvenuta, che abbiamo pure scomodato dalle vacanze, oggi ci siamo un po' divertite con tutti, grazie. Buongiorno, eccoci a tutti, qua. Grazie. Guarda, intanto che Paolo Corleoni recupera il meteo o il traffico abbiamo adesso? È il traffico. Allora Anna, sentiamocelo e poi interpello anche te, sentiamo che riflessione hai fatto su questa vicenda egiziana. A tra poco. Ma cos'è quest'estate? Lascio da parte tutti i commenti folcloristici che arrivano dai nostri ascoltatori al 349-238-6666 su questa vicenda. C'è qualcuno che addirittura scrive: mi dica lei se le viene in mente il nome di una giornalista grassa che conduce un telegiornale italiano. Allora, a parte il fatto che sono tutti mezzo busto, quindi magari se hanno anche un po' le cosce arrotondate non si vede perché sono sedute, detto questo, sono tutte belle, e mi pare un requisito anche abbastanza naturale che venga chiesta una bella presenza. presenza per andare in onda, però poi effettivamente nessuno ha mai parlato di questi casi in Italia, se siano successi o meno, di qualche direttore che abbia chiesto perdi qualche chilo se no non vai in onda, magari potrebbe esserci anche stato, ma insomma non credo. Detto questo, Anna Billò, intanto che è caduta, ecco qua, adesso la ripeschiamo. Anna Billo è conduttrice appunto di Sky Sport, adesso glielo racconto anche se la riprendiamo. Se voi andate a digitare il nome di Anna Billo appunto su Google, tutte le cose che escono e che la riguardano è la giornalista sportiva più bella in circolazione, la modalità con cui suo marito le ha chiesto di sposarla, perché essendo un noto ex calciatore appunto lo ha fatto in diretta proprio mentre lei lo intervistava, per cui ecco poi le modalità con cui qualche volta ci tocca come dire sentir parlare di noi prima che addirittura della nostra professione, della nostra professionalità. Chissà se abbiamo ripescato. Anna, mi senti? Sì, adesso perfettamente. Eccoci qui. Hai sentito il presupposto con cui ti ho presentata? Avevi la radio accesa? No, ho sentito, sì, prima del traffico. Sì, no, adesso te lo riracconto. No, perché adesso dicevo, se uno digita Anna Billò su Google perché vuole andarsi a documentare, no, io ho l'ospite, lo faccio con tutti quanti, la prima certo. cosa che viene, la giornalista sportiva più bella in circolazione, tutti, ovviamente, come tu ben saprai, su Google vengono fuori tutti i filmati di come sei stata chiesta in esatto. sposa, quindi chiudiamo anche questa parentesi. In terza posizione o quarta arriva il fatto che sei ritornata in onda da poco, dopo le tue maternità, appunto, con gli europei di calcio. Questo per dire, non ovviamente per raccontare i fatti tuoi, ma per il fatto che molto spesso può anche capitare che, come dire, la professionalità venga un po' in ultima battuta quando si tratta di donne e giornalismo. Non capita sempre così, per fortuna. Però, insomma, a te il caso egiziano che cosa ha fatto? Che riflessione ha fatto venire in mente? Intanto una mancanza assoluta di libertà, no? Perché c'è un'imposizione di un modello estetico che, a prescindere se si parli dell'Egitto o dell'Italia, viene riproposto allo stesso modo, no? C'è un peso forma che deve essere mantenuto, e comunque è una mancanza di libertà, un'imposizione, no? del modello estetico. E poi mi fa pensare che questi argomenti vengono sempre associati esclusivamente alle donne, che può essere una banalità, però prima stavamo parlando della richiesta di professionalità, no? Delle competenze, e alla fine si giudica molto di più una donna per il suo aspetto estetico piuttosto che per la professionalità, cosa che non avviene con gli uomini, e spesso si possono vedere anche differenti trattamenti, no? A livello professionale rispetto a questo. Io sono un po' in un'isola felice, perché devo dire che a Sky nessuno mi ha mai messo in dubbio come conduttrice, anche quando sono tornata dopo la seconda maternità. Ecco, più non rotondetta. È che ti è stato detto, insomma, vuoi no. smaltire questi rotolini derivati dalla gravidanza, perché sennò no, non conduci certo. lo speciale sugli europei, ecco, mi pare ovviamente che sarebbe stato no. infatti. Fortunatamente no, però dispiace sempre leggere, soprattutto in quest'estate, no? Perché lo dicevi tu anche all'inizio, il caso dei burkini, il caso legato alle Olimpiadi di Rio con l'aggettivo cicciottelli, insomma si parla sempre di questioni estetiche e poco di forma, credo, e questo un po' a tutti i livelli, perché è vero in mass media, ma poi alla fine è proprio la società, no? Che si basa tutta sull'estetica e non si fanno passi avanti, nonostante sia un tema trattato da molto molto tempo. Infatti, Anna, grazie molte per essere stata con noi. Sto andando verso la conclusione, sento gli ultimi commenti appunto di Marino Niola e Barbara Serra. Con Barbara appunto eravamo rimaste in sospeso, e mi colpiva in particolar modo il commento, Barbara, che avevi fatto sul fatto che tu eri particolarmente colpita dal fatto che la notizia sia uscita dall'Egitto. Perché ti ha sorpreso in particolar modo il fatto? No, non che sia uscita dall'Egitto, che sia uscita in maniera così forte. Ma in qualsiasi paese mi sorprenderebbe, perché, e te lo dico da perso, io sono 8 mesi incinta ora, perciò ero in TV fino a non tanto tempo fa, e poi tornerò dalla maternità, e io parlando con tutte le mie amiche in TV, sai, magari non te lo chiede il capo, ma sappiamo tutte benissimo che comunque è meglio perdere i chili di troppo, ma non dico di tornare a essere una 38, però insomma è una cosa. Quello che direi è che forse nel nome dell'eguaglianza le cose stanno cambiando anche per gli uomini, perché se tu noti l'era dei possiamo chiamarli bruttoni calvi grassi, che spesso erano lì perché erano dei bravi giornalisti, ovviamente per gli uomini non importava il loro aspetto fisico. Qui sta cambiando, se tu guardi, soprattutto tornando alle TV americane o anche qui in Inghilterra, canali come Sky News, insomma quelli internazionali che hanno anche un profilo internazionale, se tu noti gli uomini stanno diventando sempre più belli, perciò in un certo senso non so se è una cosa positiva o no, ma almeno stiamo arrivando all'eguaglianza nella superficialità. Ecco. C'è anche sostanza dietro a questa bellezza, Barbara, quantomeno, ecco, per chi esaspera l'aspetto del presentarsi adeguatamente in onda, vabbè, lo possiamo anche comprendere, ti devi presentare magari ad un pubblico molto vasto, il modello che deve passare deve essere anche corretto, adeguato, insomma una persona che sta bene, che trasmette anche sicurezza quando deve parlare di certe notizie, trasmettere certi messaggi. Ci sono però, c'è solo bellezza, si insiste su questi aspetti, c'è anche sostanza? Allora, io credo che sia anche finita l'era del TG molto statico, dove tu leggevi per mezz'ora e per lo più non dovevi veramente interagire, non dovevi fare interviste e cose così. Ora per lo più sono canali all news, il che vuol dire che è tutto in diretta, può succedere di tutto, ecco. E alla fin fine tu non sopravvivi se non sai quello di cui stai parlando, se non sei un professionista. Questo in qualsiasi canale, figurati in Egitto, dove sappiamo bene in Medio Oriente, insomma, ne stanno succedendo di tutti i colori. Perciò io credo che la professionalità sia, cioè, quello è dato per scontato, se no andrebbero a prendere solo modelli e modelle 25enne, che ovviamente non fanno, però io credo che bisogna essere onesti e dire che c'è un look che conta, che non deve necessariamente essere bellezza, ma c'è un qualcosa che fa sì che il pubblico si fidi di te. E quella è una sai, lo decidono i capi e poi lo sai subito, appena vedi qualcuno in TV, diciamo buca lo schermo per usare quella frase, e chi no. Però io non credo che il peso debba entrarci, puoi avere quella qualità, torniamo a Oprah, non essendo una taglia 38 perfettina. Barbara, grazie molte per essere state con noi, auguri per la tua maternità, grazie. Naturalmente l'arrivo del bebè imminente. Concludo con un ultimo commento con Marino Nione, insomma adesso non so quanto sia un fruitore dei telegiornali nazionali o internazionali, ma quanto, Marino, ti fermi anche sulla qualità estetica della persona che racconta la notizia, quanto ti colpisce se c'è un giornalista, una giornalista particolarmente bella, avvenente, ti soffermi di più sul contenuto, capita anche che in qualche maniera si possa essere distratti dal fatto che la caratteristica estetica sia una, insomma, che spicca in particolar modo o meno? No, io direi che la bellezza, la gradevolezza di una persona, anche il suo carisma, come diceva Barbara Serra, può essere un bonus, ma sicuramente nel caso delle notizie non è tutto, non è quello che si cerca in una notizia. Quindi sicuramente non guasta, però questo non significa che la bellezza può diventare un criterio di discriminazione, quella è la questione. Qualcosa in più, ma non qualcosa in meno. Però insomma diceva Barbara Serra che anche agli uomini, attenzione, perché adesso vi viene chiesto di togliere la pancetta, se possibile, insomma andare in onda anche dal punto di vista estetico particolarmente curati, perché è giusto che sia così nei confronti del pubblico al quale ci si rivolge, mettiamolo in questo modo. Assolutamente sì, ecco. Purché appunto quello non diventi l'unico criterio, perché altrimenti andremmo dei modelli e non più dei giornalisti, esatto. Allora prenderemmo direttamente, andremo in palestra a scegliere, l'anchor meno l'anchor women. Grazie a Marino Niola per essere stato con noi, buon proseguimento di vacanza, ma cos'è quest'estate nella prima puntata con la sottoscritta, termina qua, grazie a Silvi Boccaletti, Massimiliano Lollis per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè ha passato la mano a Paolo Corleoni per la seconda ora del programma, noi torniamo domani mattina verso le 8:15, vi auguro una buona giornata, presto.